Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed Noble, and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al Beato, al Nobile, e al pienamente autoilluminato. So, to complete the picture, we have to understand karma in its fullest sense. Per completare il quadro, dobbiamo comprendere il karma nel suo significato più completo. Yeah. There are, first of all, how does the Buddha see things, why things happen? Innanzitutto, in che modo il Buddha vede il perché le cose accadono? What does he mean by the karma which is to do with liberation? Cosa intende quando parla del karma che ha a che vedere con la liberazione? These are the two main things. And within the whole of the matrix of life, how does karma work? E come funziona il karma all'interno di questa matrice, diciamo, della vita? And this includes the process of rebirth. E questo comprende il processo della rinascita. So all this gives us an overall view of the Buddha's teachings. E questo ci dà una visione globale degli insegnamenti del Buddha. When he went to teach his disciples after he became liberated, one of them, Asaji, if I remember his name, met somebody on the road. Quindi quando lui ha cominciato a insegnare ai suoi discepoli, uno di questi discepoli, Asaji, ha incontrato qualcuno per strada. And the person asked him who his teacher was. He saw that he, you know, was something exceptional, and asked him who his teacher was. Allora questa persona ha chiesto al monaco, ma chi è il tuo maestro? Perché ha visto che c'era qualcosa in lui di eccezionale. And what does he teach? E poi gli ha chiesto, e cos'è che insegna? So he said that the Buddha taught that arising and passing away is due to causes. Allora lui rispose che il Buddha insegnava che il sorgere e lo svanire delle cose era dovuto a delle cause. I'm paraphrasing that. Sta parafrasando. And the man immediately was taken by that and went to see the Buddha. Allora fu colpito da questo, l'uomo, colui che fece la domanda, e andò a trovare il Buddha. So, when the Buddha explained this business of causality, he used very simple phrases which make immediate sense. Quindi quando il Buddha spiegava questa idea della causalità, usava delle parole molto semplici perché avessero un significato immediato. But the consequences are incredibly complex. Ma le conseguenze di questo discorso, di questa idea, sono molto complesse. So the first one is what we would recognize as normal causality. La prima, il primo modo di come dire, esprimere questo concetto è come noi normalmente intendiamo questa idea della causalità. Sì. So because this happens. Because this happened in the past. This happens now. Poiché è successo questo nel passato, quest'altra cosa succede ora. So a simple thing would be because I went to work, I get my wages. Una cosa molto semplice, poiché sono andato a lavorare, mi prendo il mio stipendio. And then the negative, because this didn't happen, this doesn't happen. Ovviamente c'è l'aspetto negativo, cioè poiché questo non è successo, allora non è successo quest'altro. So I didn't go to work, so I didn't get any money. Non sono andato a lavorare, non ho avuto i soldi. So that one we understand very clearly as the ordinary law of causality, cause and effect, cause and effect. Questo lo capiamo molto bene perché è la normale legge di causa effetto, di causalità. But he also said that in this present moment, because this is happening, this also happens. Ma lui ha anche detto però che tutto ciò avviene anche nel momento presente, cioè poiché sta succedendo questo ora, anche questo sta succedendo. Ah, so because we are here now, this retreat continues. Per esempio, poiché noi siamo qui ora, questo ritiro continua. Ah. And the opposite, if something isn't here in the present moment, something else isn't here in the present moment. E poi il contrario, se qualcosa non è presente in questo momento, non sarà presente quest'altra cosa in questo momento. So if tomorrow morning I found you'd all left out of disgust, there would be no more retreat. Se domani mattina scopro che a causa di una reazione di disgusto non c'è nessuno rimasto al ritiro, è la fine del ritiro. Sì. So, two things, you see. In any given moment. Quindi ci sono due cose. In un dato momento, in qualsiasi dato momento. There's a conditionality coming from the past. C'è una condizionalità che deriva dal passato. And there's an immediacy of different causes coming together in the present moment. E c'è un'immediatezza di diverse cause che si incontrano nel momento presente. So all of us have come from came here from certain situations in our lives. Tutti noi siamo arrivati qui da diverse situazioni nella nostra vita. Yeah. For various reasons. Per diversi motivi. Arriving here, we have this situation now. Quindi, arrivati qua, noi abbiamo questa situazione adesso. So there's the law of causality and the law of contingency. C'è la legge della causalità, ma anche della contingenza. Things touching. Le cose che si toccano, entrano in contatto. Now, if everything at the present moment is caused by the past, it's difficult to see how there could be creativity. Se tutte le cose che ci sono adesso sono causate dal passato, allora sarebbe difficile capire come potrebbe esserci la creatività. It suggests some sort of repetition. Perché questo darebbe l'idea di una sorta di ripetizione. Because where would the new stuff come in from? Perché da dove arriverebbe allora la roba nuova? You see? Now, in nature we have a certain rotation, morning and night. Nella natura c'è questa rotazione, questa ciclicità, diciamo, la mattina, la notte, il pomeriggio, la notte. There's a certain fate, you see? We're born, we grow, then we die. C'è una sorta di fato, di destino, diciamo. Nasciamo, invecchiamo e moriamo. So there is that underlying causality in nature and in ourselves. Quindi c'è questa causalità sottostante nella natura e in noi stessi. And you can see that if a person believes only that, he arrives at the belief of fate. Everything is determined. Capite che se una persona crede solamente in questo, arriva a credere al destino, cioè tutto è già predeterminato. So we have, for instance, in Christianity, Calvin in Switzerland, not Geneva. Nel cristianesimo c'era Calvino, che era uno svizzero di Ginevra. Yeah, so God knows everything. He knows from the beginning of time whether you're saved or not saved. Dio sa tutto, sa già dall'inizio dei tempi se tu sarai salvato oppure no. So no matter what you do in this life, no matter how good you are, it's already determined. Indipendentemente da quanto sei bravo, da quello che puoi fare in questa vita, comunque il tuo destino è già predeterminato. I often wonder whether Calvin himself thought himself saved or not. Adesso io mi sono chiesto se Calvino si ritenesse come uno già salvato oppure no. And a bit of some of our lives is fate, is given. Eh? Sì, un po' della nostra vita è destino, è una cosa che ci è data. Yeah. Where we're born, our culture, our language, and so on. Dove siamo nati, la nostra cultura, la nostra lingua e così via. Yeah. The history we're born into. La storia in cui siamo nata, nati, la storia nel senso del... Yeah. Sì, la storia con la S maiuscola, ecco, il periodo storico in cui siamo nati. Now on the other hand, if things only happen because things come together at a certain time, ma d'altra parte, se le cose capitano perché gli eventi accadono contemporaneamente, oppure entrano in contatto in un determinato momento, yeah, without any past at all, senza alcun passato, then the impression would be one of chaos. L'impressione che si avrebbe sarebbe una di caos. Huh. Yeah. Suddenly, you know, suddenly it's raining, and then suddenly it's not. There would be no rhythm. There'd be no there'd be no rhythm to anything. Improvvisamente piove, poi improvvisamente non piove più, quindi no, è come se non ci sarebbe più un ritmo dietro le cose. Everything would happen by chance. Tutto succederebbe per caso. So often in our lives things happen by chance. Spesso nella nostra vita le cose succedono per caso. Often we meet our beloved by chance. A volte noi incontriamo la persona amata per caso. We might regret it later, but at this point in time. Magari dopo ce ne pentiamo. But at the point of meeting, it's wonderful. E quel momento di contatto, di incontro, è meraviglioso. If we think that everything happens by chance, then there would be no reason for any moral law. Se dovessimo credere che tutto capita per caso, non ci sarebbe nessuna ragione per avere una legge morale. Because, you know, I might do good, but something ridiculous might happen. Perché io potrei fare del mio meglio per essere buono, ma potrebbe succedere qualcosa di ridicolo. And on the other hand, I might do something terrible, and just something else happens. Oppure potrei fare qualcosa di terribile e succede qualcos'altro. So both these positions of causality and contingency lead to a particular ethic. Quindi entrambe queste posizioni, una di causalità e l'altra di contingenza, ognuna di queste porta ad una etica diversa. Yeah. Both of them, in a sense, to a determination. Entrambe però portano a una determinazione. Yeah. So one side, it's fate. Huh? Sì, quindi un'affermazione direi più. Quindi da una parte è il destino. And the other side is an unknowability, and therefore no reason to have a moral law. Il secondo invece è il non conoscere, il non sapere cosa succede, quindi non c'è alcun motivo per avere una legge morale. If we understand ethics as just relationships, Noi quindi dobbiamo però intendere l'etica solo come relazioni. So it's our relationship to each other, our relationship to nature and so on. Quindi si intende la nostra relazione gli uni con gli altri o con la natura e così via. So it's relationship. Quindi l'etica come relazione. When you put these two together, then we understand the way the Buddha saw things happening. Quando mettiamo insieme queste due posizioni, allora capiamo il modo in cui il Buddha intendeva il succedersi delle cose. So even though there is causality, you see, so when we do something good, we don't know what the effect will be, except that there will be some good effect. Quindi, quando facciamo una cosa buona, noi non sappiamo che tipo di effetto questa cosa avrà, però sappiamo che l'effetto sarà buono. The example I normally give is of a charity that sent clothes to a particular place in Africa. L'esempio che faccio a questo riguardo spesso è di una istituto di beneficenza che mandava dei vestiti, degli abiti in un posto in Africa. Which was done with the goodness of the heart, and you know, everybody collected clothes. It was all very, very good. Era tutto fatto proprio con la bontà di cuore. Tutti raccoglievano i loro abiti usati, li mandavano in questo paese in Africa. But unfortunately, it ruined the local tailor trade, which had a effect on the economy, local economy. Ma purtroppo questo però ha influito sul commercio della sartoria, diciamo, l'industria sartoriale locale, e quindi questo si ha avuto poi un riflesso sull'economia. So they had to stop doing it. E quindi hanno dovuto smettere di farlo, di mandare questi vestiti. So sometimes just to do something out of goodwill doesn't mean to say that the product is going to be wonderful. E questo vuol dire che anche se facciamo una cosa con tutte le migliori intenzioni, non è detto che poi il prodotto sia meraviglioso. But the real teaching concerning this understanding of how things happen is that we don't know. Ma il vero insegnamento per capire come succedono le cose è il fatto che noi non lo sappiamo. We don't really know in any real sense what's going to happen in the next moment. Non sappiamo in realtà, in un senso molto reale, quello che succederà il prossimo attimo. We live on a presumption that things will continue as they are. Viviamo con questa supposizione, questo presupposto, che le cose continueranno così come sono adesso. So it always comes as a great shock if one of us here right now drop dead. E quindi arriva sempre come uno shock se uno di noi qui presente, per esempio, dovesse morire improvvisamente. Especially me. Soprattutto se morissi io. It'd be a shock for me. Per me sarebbe uno shock. So it's living with uncertainty, which is the Buddha's teaching. E quindi è questo vivere con l'incertezza, questo è l'insegnamento del Buddha. We don't know. Non sappiamo. And if you remember yesterday we were talking about this fundamental place that we're coming from anyway, which is don't know. Se vi ricordate, ieri abbiamo parlato di questo punto fondamentale di base da cui proveniamo, diciamo, che è il non conoscere. I don't know who I am, you see. I don't know who I really am, if there's an I there, and I don't know what's going to happen in the next moment for sure. Io non so chi sono veramente, se c'è davvero un io, e sicuramente non so quello che succederà tra un attimo. So living with that insecurity is to live with impermanence, anicca. Vivere con questa insicurezza è vivere con l'impermanenza, con anicca. And when we live with that impermanence, we come across fear. E quando viviamo con questa impermanenza incontriamo la paura. Because what the I wants is safety. Che quello che vuole l'io è la sicurezza. We all want safety. Vogliamo sicurezza. We want a home, we want food, we want a bank account, and so on and so forth. We want to feel safe. Vogliamo una casa, vogliamo del cibo, vogliamo un conto in banca e via di seguito. Cioè vogliamo sentirci al sicuro. And remember, the more we have of these things, the safer we feel. E ricordate che più ne abbiamo di queste cose e più ci sentiamo sicuri. Paradoxically, the safer we feel, the more fearful we are of losing anything. Paradossalmente, più ci sentiamo sicuri e più abbiamo paura di perderli. That's why queste cose. See, that's why the poor are always more generous than the rich. Ed è per questo che i poveri sono sempre più generosi dei ricchi. Yeah. They've done, you know, tests. Hanno fatto dei test. So living with insecurity, coming face to face with the fear of not being in control. Quindi vivere con questa insicurezza e vivere faccia a faccia con questa, questa incertezza del non essere in controllo. That is the process of liberation. E questo è il processo della liberazione. Because it's liberating us from a false sense of security. Perché ci libera da un falso senso di sicurezza. Sì. And when we, the more we let go of fear, the more we let go of the sense of me. E più lasciamo andare la paura, più lasciamo andare questo senso del me, dell'io. Sì. So it's worth contemplating the insecurity of life, you see. Mi vale la pena di contemplare questa insicurezza della vita. Even the parts of the body, you see. Anche per quanto riguarda le parti del corpo. Yeah. So for instance I was at Gaia House last week. Is it? Yeah, last week. No, week before. Due settimane fa ero a Gaia House in Inghilterra. And one eye was not was going fuzzy. E uno dei miei occhi si stava un po' annebbiando. So when I went to see the optician, sono andato dall'ottico. Within 2 hours he had me see a consultant. E in 2 ore poi mi ha mandato da uno specialista. So then he gave me medicine to stop the eye from having too much pressure. E quindi mi ha dato una medicina per impedire che ci fosse troppa pressione nell'occhio. Yeah, sì. So this came as a surprise. Questo mi è giunta come una sorpresa. So anything can happen anytime. Quindi qualunque cosa può succedere in qualunque momento. Because we don't know what things are coming together in any present moment. Perché noi non sappiamo quali sono le cose che si incontreranno in un qualsiasi momento. Even in the body, parts of it are growing older quicker than other parts. Anche nel corpo ci sono delle parti che invecchiano più velocemente di altre. Sì. So it's something to contemplate. That's why we do the contemplations every evening on sickness, old age and death. Sickness, aging and death. È una cosa su cui bisogna contemplare ed è per questo che tutte le sere facciamo le contemplazioni serali sulla la malattia, l'invecchiamento, la morte. So that's his teaching about why things happen. E quindi questo è l'insegnamento del Buddha riguardo al perché le cose succedono. Now we have to be clear as to what is it in our experience which is the karma to do with liberation. Adesso dobbiamo essere chiari rispetto a qual è l'esperienza riferita al karma che porterà alla liberazione, che ha a che vedere con la liberazione. So there are 5 laws, as they're called. Ci sono 5 leggi cosiddette. And they relate very much to the way we see the world. E corrispondono al modo in cui noi vediamo il mondo. So they are, it is known as the law of heat. Allora, c'è la legge del calore. Which means the law of physics, because everything is energy. Heat in the ancient days was seen as just energies. E sono le leggi fisiche, perché la fisica è vista come energia, il calore è visto come energia, anche nell'antichità era vista così. So it relates to our physics, chemistry, that sort of area. E quindi ricomprende l'ambito della chimica, della fisica. Then there's the Bija Niyama, it's the law of the seed, so this is our genetics. Bija Niyama è la legge del seme e questo riguarda la genetica. Then there's Chitta Niyama, which is the law of the mind, our psychology. E poi c'è la legge della mente e quindi la nostra psicologia. And when you take psychology out in between people, it's our sociology. Sì, e quando applichiamo la psicologia alle relazioni tra le persone, allora si ha la sociologia. Then there's this karma, which is to do with ethics. E poi c'è questo quarto ambito, che è la quarta legge, che è quella del karma, e ha a che vedere con l'etica. And then finally the spiritual laws, which is the teachings of the Buddha. E poi la quinta legge è quella spirituale, che ha a che vedere con gli insegnamenti del Buddha. Mm. So the first one, you see, the terrible earthquake in North Italy, wasn't it? The bad, it was Northern Italy, wasn't it? That bad earthquake some years ago. Ah, some years ago, yes. Yeah, really? You see. So this is the law of nature. Emilia, you're talking about the Swiss. Yeah. Yeah. Sì, per esempio il terremoto che c'è stato, qui in Emilia probabilmente poco tempo fa, pochi mesi fa, beh, questo è una legge di natura. Mm. Now, you will find in the East that people will think that because you were injured or crushed to death by that, then you did something terrible in your past life. In Oriente si sarebbe detto, pensato che se a causa di questo terremoto tu fossi morto oppure ti fosse successo qualcosa di male, il motivo è perché hai fatto qualcosa di sbagliato nel tuo passato. Ah, you see. But that's not the Buddha's teaching. Ma questi non sono gli insegnamenti del Buddha. No, because when you're born into a place, yes, it's a general consequence of your being born that you happen to be born where there's possibility of earthquake. Perché quando nasci in un determinato posto, sì, fa parte di tutte le possibili conseguenze legate al fatto che sei nato in un posto dove ci potrebbe essere un terremoto. Yeah. But this earthquake was not caused because all the people in that city did something terrible in their past lives. Ma questo terremoto non è stato causato dal fatto che combinazione tutte le persone nate in quella zona hanno fatto qualcosa di male nel loro passato. You see? So it's the same as a tsunami, you know, which killed so many people, you see. Come lo tsunami che ha ucciso tutte quelle persone. Yeah, there'll be some who think that, you know, they drowned some dogs in a past life or something. Ci sarà qualcuno che pensa, beh, tutte quelle persone hanno fatto annegare dei cani nel loro passato. Unfortunately, there are some commentaries and some stories which would suggest that. Sfortunatamente ci sono dei commentari, dei testi o delle storie che effettivamente indicherebbero, suggerirebbero questa possibilità. The one I normally tell, which some of you might have heard, is about a ship. Quello che di solito racconto, forse l'avete già sentito, è quello di una nave. It was a merchant ship, and suddenly, even though there was a good wind, it stopped in the middle of the sea. Allora, c'era una nave commerciale, si può dire. Mm. E, anche se c'era il vento favorevole e tutto quanto, questa nave si ferma improvvisamente in mezzo al mare. So the captain didn't understand why. Il capitano non riusciva a capire il perché. Luckily there was a group of monks on board. Ma fortunatamente c'era a bordo un gruppo di monaci. So he asked them to go into this problem. E gli ha chiesto di risolvere questo problema. Having meditated deeply, they told him the reason. E quindi dopo aver meditato profondamente gli hanno spiegato la ragione. His wife in the past life had drowned many puppy dogs. Sua moglie in passato aveva fatto annegare molti cagnolini, molti. The only way the ship would move forward would be to get rid of the wife. L'unico modo perché la nave potesse insomma riprendere, no, il suo percorso, quindi andare avanti, era di uccidere, cioè di liberarsi della moglie. So she was thrown over. L'hanno buttata in mare. And the ship moved off. E la nave è andata avanti. So you see, ordinary people's understanding is very mechanical. Quindi questa legge nel pensiero ordinario delle persone è un fatto molto meccanico. And sometimes you say this to children. You know. E a volte lo si dice ai bambini. Yeah. There was I was at a ceremony where some young boys were being ordained into Samanera. See, 7, 8, 9, 10. Ho partecipato a una cerimonia dove c'erano dei bambini che stavano per essere ordinati e diventare samanera, avevano 7, 8, 9 anni. And the monk said to them, you know, you're dependent on the lay people's offerings of food and shelter and clothing. Allora il monaco gli disse: sapete, voi dovete dipendere dalla generosità dei laici per la vostra, il vostro cibo, per il vostro riparo, i vostri vestiti. Mm. So you mustn't be lazy, you see. Quindi non dovete essere pigri. Mm. If you're lazy in your next life, you will be reborn as a pig. Se sarete pigri nella prossima vita, rinascerete come maiali. And all the little boys went. E tutti i bambini rimasero a bocca aperta. So you can see how traditional beliefs originate. Vedete come hanno origine queste credenze popolari. So what happens in wherever we are in nature is not our personal karma, but our response, our reaction to what happens to us. Ah, yeah. Quindi se ci capita qualcosa legato alla natura, diciamo, questo non dipende dal nostro karma personale, ma il modo in cui noi reagiamo a queste leggi di natura, allora quello sì. Mm. So when we feel a tremor, if there's a sudden fear arises, the fear is our karma. Quindi se c'è un tremore, diciamo, e sorge la paura, allora è la paura il nostro karma. Ah, I am afraid is suffering. Quindi io ho paura è una sofferenza. Ah, sì. So it's the same with our biology. E la stessa cosa si può dire per la nostra biologia. Yeah. The body we end up with is, you know, it is a product of generations. Il corpo con cui ci ritroviamo è il prodotto di generazioni. Yeah. See? So if we end up with a genetic disease, then this isn't because I've done something terrible in my past life. Se finiamo per avere una malattia genetica, questo non è perché ho fatto qualcosa di terribile nella mia vita precedente. Mm. But if a person does have a crippling disease, how they relate to it is their karma. Ma se una persona ha una malattia debilitante, il modo in cui si relaziona a questa malattia, questo è il suo karma. Ah. So if they resist it, if they're fighting it, if they are afraid of it, and so on and so forth, that's their suffering, you see. Se loro resistono, oppure hanno paura di questa malattia, allora questo costituisce la loro sofferenza. Mm. But if they are at ease with it, if they accept it and work with it, then of course it's a different situation. Ma se sono a loro agio, se lo accettano, allora questa è un'altra situazione. Ah, sì. So, sometimes, again, you get this understanding from the East that somebody who's born with a genetic disorder is their fault. A volte si ha questa idea, soprattutto nel pensiero orientale, che se una persona nasce con un certo disturbo è come se fosse colpa sua. Ah, okay. Then there's the citta niyama, the law of the mind. C'è citta niyama, la legge della mente. So this refers to the whole process whereby we construct the world, you see. E questo si riferisce a tutto quel processo attraverso il quale noi ci costruiamo il mondo. Mm. So it's to do with our perceptual faculties, the way we understand things. Ha a che vedere con le nostre facoltà percettive, come comprendiamo le cose. Yeah. Even the way that we create emotional states. Anche il modo in cui creiamo degli stati emotivi. Yeah. So all what we would understand by psychology, by the mind, the brain-mind complex, that would come under this law, you see. Tutto quello che noi chiamiamo psicologia o che appartiene a questo complesso di mente e cervello, questo rientrerebbe in questa legge della mente. Yeah. And the law of that's dependent origination that we did last night. E la legge è proprio l'originazione dipendente, quella che abbiamo visto ieri sera. Ah, sì. Then finally, we'll skip karma for a minute. We'll go to the fifth, which is the spiritual laws. Quindi saltiamo per un attimo la legge del karma, che è il quarto, e andiamo alla quinta, che sono le leggi spirituali. Hmm. So here, these are all to do with from the Buddhist point of view, the teachings of the Buddha. No? E queste hanno a che vedere da un punto di vista buddista. Con gli insegnamenti del Buddha. So they are to do specifically with those with the understandings and laws that lead us towards liberation. Quindi hanno a che vedere con quelle comprensioni, quelle leggi che portano alla liberazione. So they would include all the teachings about the hindrances, about the seven factors of enlightenment, the four noble truths, and so on. E quindi comprende tutti quegli insegnamenti come i cinque ostacoli, i sette fattori di illuminazione, le quattro nobili verità, eccetera. Mm. So, we now come to the question of, well, what is this karma, which is to do with the process of liberation? E adesso allora arriviamo alla questione, ma cos'è questo karma che ha a che vedere con il processo di liberazione? So now, if we remember the Buddha's own enlightenment and what we call the three knowledges. Allora adesso riportiamoci a l'illuminazione del Buddha stesso e le tre conoscenze. Mm. So the first one, remember, was that he was purified of all defilements. La prima riguardava il fatto che lui si era purificato di tutti i difetti mentali. The second one was that he saw how he arrived at this point through a series of lifetimes driven by his ethical decisions. E la seconda è che lui capì come era arrivato a questa esistenza, in questo momento, spinto da tutta una serie di vite precedenti e guidato in qualche modo da decisioni etiche. And the third one was that he saw beings arising and passing away, being reborn, dependent on ethical decisions. E la terza conoscenza è quello di aver visto come le persone o gli esseri sorgevano e sparivano, quindi la rinascita praticamente continua, e questo era dovuta di nuovo a delle decisioni etiche. Ah. So what was a personal law became a cosmic law, a universal law. Quindi quella che inizialmente era una legge personale è diventata una legge universale, cosmica. Oh. Yeah. So, in order to understand the importance of that, we have to go back to dependent origination. Quindi per capire l'importanza di tutto ciò, dobbiamo tornare all'originazione dipendente. Ah. So again, we are trying to discover who or what we really are before we were born. Quindi stiamo cercando di scoprire chi in realtà eravamo prima di nascere. Not only born at the point of our birth, but every moment. Quindi è per questo intendo non nati nel momento della nostra nascita, ma in ogni momento. And that dependent origination is telling us that because of a delusion as to who we are, we behave in such a manner. E questa è la legge della originazione dipendente, ci dice che il motivo per cui noi siamo in un determinato modo è perché ci siamo comportati in un certo modo. Mm. And how this leads us to suffering, yeah? E come tutto questo ci porta alla sofferenza. Ah. When we see how we are creating suffering, just like the Buddha did, we then begin to undo the process. Quando vediamo com'è perché che ci stiamo creando la sofferenza, così come ha fatto il Buddha, capiamo anche com'è possibile districarci da questo processo, liberarci dal processo, andare un po' a ritroso. Yeah. And the Buddha still did things like teaching, you see. He still made decisions, he still did things just like us. Il Buddha ha continuato a fare delle cose, a prendere delle decisioni, a insegnare, esattamente come noi. But there was not this delusion running underneath of who he was. Ma non c'era questa illusione sottostante riguardo a chi fosse. He no longer saw himself as this psychophysical organism. Non si vedeva più come questo organismo psicofisico. That's why he referred to himself as the Tathagata. Ed è per questo che si riferiva a se stesso come al Tathagata. Which means the one who's gone beyond that, the transcendent one. E questo significa colui che è andato oltre, il trascendente. So it is embedded right in the beginning of the story, this whole process of rebirth driven by our ethics. Quindi è un po' integrato, diciamo, proprio inserito profondamente nella nostra storia, questo fatto del andare avanti guidati dalla nostra etica. What's embedded in the fact that we... The idea of rebirth is embedded right in the beginning of the story of the Buddha. Sì, ok, questa idea della rinascita quindi è proprio parte integrante della storia del Buddha. Even though you might find some Buddhist writers now deny rebirth, troverete degli autori buddhisti che rinnegano la rinascita. It's difficult to understand how you can see the fullness of the Buddha's teachings. È difficile in questo modo però capire come capire la pienezza dell'insegnamento del Buddha senza questa idea di rinascita. Because it seems to be a we can call it a psychological imperative that everybody seeks their happiness. Perché sembra quasi un imperativo psicologico che tutti cercano la propria felicità. And that what the Buddha is saying is that everybody can find this liberation. E quello che dice il Buddha è che tutti possono trovare questa liberazione. And that if we cannot find it in this particular life, then we continue and eventually we will find it. E se non riusciamo a trovarla in questa vita, possiamo andare avanti e prima o poi la troveremo. When we understand that, we then understand what this karma is and vipaka, the action and the consequence. Quindi quando comprendiamo questo, comprendiamo il karma e comprendiamo vipaka, cioè l'azione e le sue conseguenze. So, an action is the point where we commit ourselves to a train of thought, a train of speech or an action. Quindi una... Karma. A karma is the point. Quindi il karma è questo punto in cui noi ci impegniamo attraverso la parola, il pensiero o l'azione. A train of thought. Oppure se ci impegniamo non in un pensiero ma in una catena di pensieri o di nuovo in una catena di parole o di azione. And with that there comes the process of eye making. E attraverso questo nasce il processo di costruzione dell'io. So these three things come together every time we make an action. Quindi queste tre cose come se si incontrassero ogni volta che noi compiamo un'azione. The eye arises. Sorge l'io. There is an act of will, chetana. C'è un atto di volontà, chetana, in pari. And there's the action. E poi c'è l'azione. This is the meaning of bhava, becoming. E questo è il significato di bhava, il divenire. So we're constantly recreating ourselves through the act of will. Quindi noi costantemente ricreiamo noi stessi attraverso l'atto di volontà. And that's why the Buddha says the will is karma. Ed è per questo che il Buddha dice la volontà è il karma. It's a bit like, I think it's a bit like when you throw a stone. È un po' come quando lanciate un sasso. You can't separate the force from the stone. Non riuscite a separare la forza dal sasso. So scientists tell me. Così dicono gli scienziati. You can measure the force, but you can't separate it from the stone. You can't say, you know, you can't, as an experiment, take the force and the stone's over here. You can't separate. Si può misurare questa forza, ma non si possono separare i due elementi. Non si può prendere la pietra da una parte e la forza dall'altra. So the action of speech is empowered by will, and you can't separate. Quindi l'azione della parola, per esempio, è attiva, è potenziata dalla volontà. Yeah. E quindi sono due cose che non si possono separare. Mm. Mahayana teaching, spesso parlano di upadana, like attachment, a point where we can work. Yes, work for liberation. Upadana really is the point of identity. At that point it's too late. Sì, it's too late. Quindi upadana, cioè l'attaccamento, la brama. No. Upadana is the point of identity. Identificazione. Ok, upadana è il momento di identificazione. A quel punto è troppo tardi. Sì. It's the point before, when we see the desire, which is the escape. È il punto prima, quando noi vediamo il desiderio, allora è lì la via di fuga. Mm. And we don't suffer until the I appears. E noi non soffriamo fino a quando non appare l'io. That's why in our meditation, when we have pain and we feel the aversion to the pain. Questo perché è il motivo per cui nella nostra meditazione, quando vediamo il dolore, è l'avversione al dolore, nasce l'avversione al dolore. And I can feel the aversion. Io sento l'avversione. So I am not the aversion, but I feel it. Io non sono l'avversione, ma la sento. This separation means I'm not suffering it. Questa separazione sta a significare che io non la sto soffrendo. It's still unpleasant, but I'm not suffering it. È ancora spiacevole, ma io non sto soffrendo. But when I say I don't want it, I immediately begin to suffer. Ma quando io mi dico io non lo voglio, a quel punto immediatamente comincio a soffrire. Mm. Sì, questo punto. Now, finally, the general law is that when you do good, the effect is good. And when you do harm, the effect is harm. La legge generale ci dice che quando facciamo del bene, l'effetto sarà buono. Quando facciamo del male, l'effetto sarà cattivo. Mm. However, we don't know what the matrix is into which we are putting that energy. Però non sappiamo qual è la matrice nella quale noi mettiamo quell'energia. So we know from science this law of chaos which you might have come across. Conosciamo questa legge del caos dalla scienza. So it is said that a butterfly wing in South America with supporting conditions can produce a hurricane in North America. Si dice che lo sbattere di ali di una farfalla, se ci sono le giuste condizioni, potrebbe provocare un uragano nell'America del Nord. Sì, because the butterfly does not know that was the initial point for all these conditions to come together to create havoc in the north. Perché quella farfalla non sapeva che sbattendo le ali quello sarebbe stato proprio il punto di svolta per creare quella serie di condizioni che avrebbe provocato poi tutti questi problemi su al nord. I don't know why scientists always choose very pessimistic scenarios. Non so perché gli scienziati scelgono sempre questi scenari pessimistici. I mean, they could have said, yes, they could have said it produced beautiful weather in the north. Potevano anche dire che avrebbe prodotto tempo bellissimo nel nord. So we don't know, for instance, by saying a kind word to somebody about the situation in the Middle East, that it isn't the beginning of a process whereby the problems of the Middle East begin to resolve themselves. Quindi noi non possiamo sapere se il fatto di dire una cosa positiva o buona riguardo al Medio Oriente, questo non sia proprio quella piccola condizione necessaria per cui cominci tutto un processo che porterà poi alla pace in Medio Oriente. Well, taking a scientific view, it would probably lead to an atomic world war. Se assumiamo un punto di vista scientifico, però questo potrebbe provocare una guerra atomica. So on the outside we don't know, but we don't know on the inside. Quindi al di fuori di noi le conseguenze esterne non possiamo conoscerle, ma neanche quelle interne. Because we don't know the matrix of our own psychology. Perché non conosciamo la matrice della nostra psicologia. Sorry, but by matrix you mean like the scheme. Matrix, how do you describe matrix? La matrice è like a blueprint. Yes, it's a complicated mass of connections. La matrice è tipo lo schema. Yeah. What was that film, The Matrix? I feel it. As it didn't translate. Perché in italiano matrice ha un altro significato. It's a mattress. No, matrice è like a blueprint. So here, per matrice si intende proprio l'interconnessione, quindi lo schema. I told you matrix, yeah. So, just one second, while I just complete the thought there. So, we don't know what is the interconnectedness of all the things in our own personal psychology. Quindi noi non possiamo sapere quali sono tutte queste interconnessioni, questo schema complesso della nostra psicologia interiore. It may be that when we do something generous, something beautiful, it will surely have an effect on us. Potremmo pensare che quando facciamo una cosa bella, un atto di generosità, questo avrà un effetto su di noi. But it will have an effect on the whole of our psychology, you see. Ma questo avrà un effetto su tutta la nostra psicologia. And sometimes when we do something for our benefit, actually it brings us a bad result. Ma a volte quando facciamo qualcosa per il nostro beneficio ci porta a un risultato negativo. I'm just thinking now of somebody who I knew had a problem with smoking and drinking. Adesso sto pensando a una persona che conosceva che aveva un problema con il fumo e il bere. But that was the way he was expending all his neuroses or his unwholesome energy. È il suo modo in cui lui spendeva, diciamo, la sua energia non salutare, la sua nevrosi. So he stopped it completely. Ha smesso completamente. But then found himself going into a deep depression. Però poi è entrato in una profonda depressione. Quite the opposite of what he had expected. È proprio il contrario di quello che lui si sarebbe aspettato. So he went back to smoking and drinking. E quindi è tornato a fumare a bere. A little bit. Un po'. He didn't go back as heavily. Però non è tornato a fumare a bere così fortemente come prima. You see, but the general law is that when we do something wholesome, some wholesomeness will result. If we do something unwholesome, some unwholesomeness will result. Però la legge generale ci dice che se facciamo qualcosa di salutare, un risultato salutare avverrà, e viceversa, se facciamo qualcosa di non salutare, questo produrrà un risultato non salutare. One never knows the consequence of an action. This is the point. Anche se non sappiamo l'esatta conseguenza di un'azione, questo punto. In my own case, I joined the order for a simple 3 years to commit myself to some intensive meditation. Per quanto mi riguarda, io ho preso l'abito, sono diventato monaco per 3 anni, mi sono preso un impegno per 3 anni per dedicarmi alla meditazione intensiva. I've been unable to escape. E non sono più riuscito a scappare. If I had known. Se l'avessi saputo. It's just a question. Since we don't know, then I think probably the Buddha is saying two things. On the one hand, he's encouraging us to do what you call wholesome activities because it might lead to positive karma or something. But at the same time, he says what we saw yesterday. I mean, this analysis probably applies even to wholesome activities, to say, you know, we have this bubble, this contact, then you have the Vedana, and then you have the Tanha, and then you have the Upadana, and you're caught. And isn't he saying here, yeah, you shouldn't get caught, you should avoid that. That's right. Even if we are talking about an activity which you might call now as wholesome. Yes, definitely. So, what do we do? Can you translate? Yes, yeah. Yes, I hope I can. Quindi dice, sono due cose fondamentalmente. Buddha ci invita a compiere atti salutari perché questi avranno delle conseguenze salutari, ma d'altra parte però Walter si riferiva all'originazione dipendente che abbiamo visto ieri sera, dove noi creiamo praticamente, entriamo in una specie di catena non conseguenziale di causa-effetto e rimaniamo intrappolati in questa creazione continua della nostra esistenza, dell'io, eccetera. Quindi dice cosa fare? Yeah, so it's the seeing of how we create the I fundamentally, which is the final escape. È il vedere come noi creiamo il nostro io, che fondamentalmente è quello che ci permetterà di uscire dal samsara, cioè la nostra fuga. So when we are in, that's why I quote the Buddha when he says, those who are mindful are in the presence of Nibbana. Per questo leggiamo questa citazione del Buddha che dice coloro che sono consapevoli sono la presenza del Nibbana. Mm. The sense of self when you are the observer and the feeler, you see? Di questo senso del sé quando uno è l'osservatore o colui o colei che sente, is telling you that something knows. Ti dice che c'è qualcosa che conosce. And it knows itself as a reflection. E conosce se stesso come un riflesso. See. It's when the reflection goes that there's the experience of that Buddha within. E quando questo riflesso sparisce che si ha l'esperienza di quel Buddha interiore. Ah. And when that is known, there this intuitive awareness will guide itself towards the end of suffering. Quando questo viene conosciuto, allora questa intelligenza intuitiva è come se guidasse se stessa fuori dalla sofferenza. And this is what we call the stream entrance, the one who enters into the stream. E questo lo chiamiamo l'ingresso nella corrente. But isn't he saying at one point that it's that you should get into a chain when, let's say, you want to correct unfortunate tendency, attachment to food or attachment to the body or whatever. There are meditational practices which are used to counter those tendencies, and you could also say that those meditational practices are concatenations of actions. That's true. So in that case, he's saying, "Go ahead. Yeah, that's okay. Yeah, definitely." Do you want to translate it? Yes, maybe it's better because I'm not so sure about your point. Walter, you can say it. No, quando ad esempio ci sono degli attaccamenti per certe cose, come con il cibo, con il corpo. Io so che in certe pratiche di meditazione si consiglia di seguire certi passi. Sì. E questi passi sono anche loro concatenazioni di azioni. Sì. In questo caso, però, il Buddha dice andate avanti. Sì. Perché ha un effetto positivo di correzione riguardo a quelle concatenazioni native. Sì, ecco. That's exactly it. He wants us to move from an unwholesome mental state towards wholesome mental states. È proprio così, lui vuole che noi andiamo da questi stati mentali non salutari verso quelli salutari. And when we are in wholesome mental states, these practices of vipassana become much more easy for us. E quando siamo in questi stati positivi o salutari, le pratiche di vipassana diventano per noi molto più facili. Sì, the more we can undermine the five defilements, the five hindrances, the more the seven factors of enlightenment are brightened. Perché più noi riusciamo a intaccare questi cinque ostacoli di cui abbiamo parlato, e più sono rese brillanti, luminose, i sette fattori di illuminazione. The sense of self is the last thing to go. Il senso del sé è l'ultima cosa che se ne va. It's the last thing. L'ultima cosa. So it will be with us for a very long time. E quindi sarà con noi per un lungo tempo. And it's not to be concerned with that at all. We shouldn't be concerned with it. Però noi non dovremmo preoccuparci. No, what we should be concerned with is the effect of that on our actions and daily life. Quello che ci dovrebbe interessare è l'effetto di questo senso del sé sulle nostre azioni, sulla nostra vita quotidiana. How it manifests as attachments and aversions and fears. E come si manifesta in termini di attaccamenti, di avversioni, di paure. And the less we experience these attachments and aversions and fears, this is a mirror to us that the sense of self is slowly beginning to disappear. E quindi come noi affrontiamo e limitiamo questi attaccamenti, queste avversioni e paure, questo per noi rappresenta uno specchio di come il nostro senso del sé gradualmente diminuisce. Sì. Allora qual è la giusta azione che noi dobbiamo fare? Qui si presentano diverse azioni dipendenti da paura, dall'attaccamento, eccetera. Quindi come faccio a decidere qual è la giusta azione? But how can I decide which is the right action, the wholesome action? Sometimes we have in front of us some options. Some are led by fear, others by aversion, and how do we know? Again we go back to this point of intention. Torniamo a questo punto dell'intenzione. So make sure the intention is wholesome, and this will undermine unwholesome intentions and create a wholesome state. Quindi se prestiamo attenzione all'attimo dell'intenzione, se l'intenzione è salutare, questo produrrà un effetto salutare e quindi andrà a intaccare, come dire, a interrompere la direzione, il flusso delle azioni non salutari. Just as a sort of example. Vi faccio un esempio. When you make a donation to a charity or whatever. Fate una donazione a una, non mi viene mai in mente, charity è un'associazione di beneficenza. Yeah. You say to yourself, I'm giving this money away for the benefit of the other. Allora voi dovete dire a voi stessi, io do questi soldi a beneficio degli altri. When that intention has suffused the mind, you give. Quando questa intenzione giustamente si è riempito tutta la mente, mind and heart, la vostra mente, il vostro cuore, allora donate liberamente. The point of giving is the point where the conditioning of generosity has been reinforced and developed. Questo atto del dare è il punto in cui questo stato della generosità, quindi della benevolenza, è stato rinforzato. Then you hear a little voice. Poi sentite dentro di voi una piccola voce. You are so generous. Sei così generoso. Too much. Take some back. Troppo generoso. Riprenditene un po'. Then you say, ah, Mara, I didn't fall for you. No, Mara, I didn't fall for you, I didn't. Sì. Allora Mara, che era tentatrice, tentatore, diciamo, io non ti ho chiamato. Ah, I didn't fall for you. Ah, no, non ci casco. Ah, non ci sono cascato. Ah, you see? You didn't reinforce that unwholesome condition. Quindi non avete rinforzato quel condizionamento non salutare. Ah, ecco. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di un qualche aiuto. May your understanding of karma and subsequent change of action towards the wholesome. Che la vostra comprensione del karma e delle conseguenti azioni verso ciò che è salutare lead you directly to the liberation of all suffering sooner rather than later. Vi possa portare direttamente alla liberazione da ogni sofferenza. Prima piuttosto che poi. Salu. Very good. So we can do some walk meditation and the evening should carry on. This, I just want to say about the Saturday.